abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Juventus. Juventus is the team leading Group D. Ed ecco, and, Totti, che sorride. Big shot of Barcelona, Sporting D. Va. So, Sporting con la D, Juventus. Where we have already Juventus, FC Barcelona and Olympiacos. Insomma, la Juventus FC e il Barcelona avranno due rivali di medio livello, ma non così semplici. No. Barcellona è forte di per sé anche senza Neymar e con eventuali nuovi acquisti, perché il mercato si chiude giovedì e credo che adesso mi pari di Dembélé, non lo so. Affrontare questo gironcino significa portare il massimo rispetto a tutte le altre tre squadre, ma avere la consapevolezza che il destino e quindi la qualificazione dipende solo ed esclusivamente da noi. Roma. Ecco la Roma. La Roma, AS Roma, Francesco. Vediamo che squadra vi, dove vi mette scena. Rupsi. Ecco il Karabag, comunque Rupsi. Un'avversaria ottima per Rupsi. Le so, italiane e trova la Roma. The group which already includes Chelsea, Atletico Madrid and AS Roma. Quasi molta più pressione rispetto a casa. Poi avevo la pressione di girare queste benedette palline, però non per colpa mia, a colpa di Shevchenko, ha preso l'urna, diciamo, sbagliata. Abbiamo un girone difficile, però anche loro non troveranno la strada piana. Occhio al Feyenoord, campione d'Olanda. Group F. Va nel gruppo F con il Napoli. So, group F is the group of Feyenoord. Napoli con Shakhtar, Manchester City e Feyenoord. Vado con calma perché la musica mi piace, la base mi piace. Bravo Ferronato in regia e Claudio Schiattone, il nostro autore. Allora, riassunto del sorteggione in sala mensa della Champions League, così è, se vi pare, non benissimo la Roma, che è quella messa peggio perché Totti non ha avuto le manine fortunate. Beh, Juventus-Barcellona è un grande classico dell'erotismo calcistico. Il Napoli se può fa, perché Manchester City, poi Shakhtar e, Shakhtar e Feyenoord. Io penso e spero possano fare tappezzeria alla festa. Ciao Pardo. Ciao. Sai che se può fa, lo posso svelare, tanto c'è niente di, di segreto. È il messaggio, esattamente il messaggio che mi ha mandato Maurizio Re Giovanni quando stavo seguendo il... Davvero? Sì, se può fa, proprio perché siamo tutti d'accordo, se può fa. Sicuramente il Napoli ha avuto pizzico di fortuna. Secondo me sono tre gironi, non c'è il girone di ferro in assoluto, non no. C'è il girone. Beh, no, l'H mi intriga, L'H, Real, Borussia. No, ti parlo delle italiane. Italiano, okay. È chiaro che la più fortunata è stata il Napoli e la meno fortunata è stata la Roma. Certo. È una via di mezzo la Juve. Quanto tempo è che non sentiamo Gianni De Biasi, Piero? È un pochino, è un po' troppo, È un po' troppo, è un po' troppo. Buongiorno a lei, dottor De Biasi. Buongiorno a voi. Se può fa? Si può fare. Si fa tutto nella vita, l'importante è avere la voglia e la determinazione per inseguire questi obiettivi. E oggi commentare dal punto di vista tecnico i gironi diventa difficile, uno perché non sappiamo la consistenza tecnica degli avversari, possiamo andare sullo storico, ma questo conta fino a un certo punto. No, chiaro, Gianni. È chiaro che la Juve, secondo me, ha forse l'unico interlocutore nel Barcellona. Poi dipende da come parte Barcellona, da quali saranno adesso le dinamiche dentro il gruppo. Il resto, il Napoli, concordo che sia una squadra che in questo momento ha una buonissima condizione e non ha un girone difficilissimo sulla carta, però la carta è fatta la carta non canta. Per fare altre cose. Scrivere sui giornali, così tenevo a dire. Anche per altri. La Roma credo che sia quella più sfortunata, tra virgolette, ma la sfortuna poi la vediamo al momento, perché oggi parliamo, siamo ad agosto, magari a ottobre, novembre, cose, o dicembre, cose cambiano, e c'è la possibilità magari di avere una Roma che sta bene, che va a mille. Magari avremo un Simeone che è una squadra che va con meno grinta, con meno determinazione di come posso dirti subito A proposito di questo, a me sembra che la differenza, sempre valutando la famosa carta, quella per A me continua a venire in mente Mino Raiola, che un giorno, intervenendo a questi microfoni, disse: i giornali di oggi, domani, servono per pulire vetri di macchina. Vetri di macchina, va bene. Ringraziamo a nome dell'Usti e dell'ordine dei giornalisti. No, a parte le battute, mi sembra che la differenza fra Roma e Atletico Madrid, considerando l'Atletico Madrid la squadra sulla quale fare la corsa, sia più che tecnica di tradizione, di abitudine a certe situazioni. Non so se sei d'accordo, mister, oppure se i valori caratteriale, ecco. Forse, Pier, caratteriale dal punto di vista di quanto riesce a trasmettere Simeone e il suo assistente a questo gruppo, e poi il fatto di essere abituati a lottare in un campionato. Cioè, tecnicamente, per essere chiari, dico tecnicamente la Roma potrebbe essere superiore vista sulla carta. Sì, è vero. Addirittura è vero, superiore. Cioè, secondo me siamo lì, non è. Siamo lì, sì, dai, poi sì, superiore o inferiore è questione. Ma poi sono due squadre diametralmente opposte, mi pare, Gianni, così come filosofia di vita quasi. Sì, credo che l'Atletico di Madrid sia più italiano di quanto lo possa essere la Roma, dal punto di vista dello sviluppo e di quant'altro, di mentalità. Simeone ha portato quella che era la mentalità del calcio nostro, quindi agonismo esasperato, attenzione maniacale all'aspetto tattico, e poi la voglia di valorizzare i singoli, dandogli delle grandi responsabilità e facendogli spesso volentieri anche giocare le partite dell'uomo contro uomo, che poi lo metti sul discorso dell'orgoglio, dai che batti questo, che se te lo vinci il tuo duello personale vinciamo come squadra. Io credo che lì stia un po' la differenza, ma credo che a questo punto poi sarà bravissimo anche Di Francesco a calarsi nel discorso Champions League. Lui magari non ha l'esperienza da allenatore, ma ce l'ha da calciatore, quindi ha la possibilità di trasmettere quelli che sono i valori che poi fanno la differenza. Sì, ma poi soprattutto questo, adesso poi parliamo anche delle altre. No, ragazzi, posso chiedere una cosa, poi rispondi, sì. Ma una cosa così in valore assoluto, nessuno si offenda. Allora, alle italiane si chiede alla Juventus di arrivare in fondo, al Napoli di arrivare lontano, alla Roma di divertirsi. Questo semplificando molto e senza che nessuno si offenda. Corretto o no, Pier De Biasi? Sì, anche se appunto stiamo veramente parlando della carta, perché la Roma è un soggetto, secondo me, difficilmente inquadrabile. È chiaro che è stata un'estate di poco entusiasmo e di molti dubbi, anche all'interno della stessa tifoseria e dell'ambiente. Però in realtà la dimensione della Roma, e già domani sera avremo secondo me un test molto interessante, la dimensione della Roma è molto buona, il centrocampo della Roma è ottimo, tanto per essere chiari, sì. Davanti c'è un attaccante che ha fatto quasi 40 gol l'anno scorso, non lo so, io la Roma secondo me delle tre è quella più difficile da inquadrare, proprio perché ha cambiato molto quest'estate. Il Napoli in questo momento mi sembra la squadra più che conosciamo meglio, più pronta, più rodata, esatto. Esatto, però la Champions non è pronosticabile per definizione, esatto. È difficilissima. Mentre sul campionato ci possono essere delle gerarchie abbastanza precise, che poi alla fine delle 38 partite vengono fuori, la Champions veramente dipende da mezzo episodio. Quindi sono molto curioso e penso però che il peggio per il calcio italiano sia alle spalle, tanto per essere chiari. Cioè, mi sembra che abbiamo tre squadre competitive. Cioè, che possono farci divertire, alcune delle quali, ripeto, cioè la Juventus segnatamente, può arrivare fino in fondo, come ha fatto due volte negli ultimi tre anni, anche se ha toccato per come nel nuoto la piastra per seconda. Gianni, la pensi come Pardo, la pensi come me? La penso esattamente come voi. Forse oggi sul gradino più alto c'è il Napoli, perché è più pronto, perché ha cambiato meno, perché ha una continuità di lavoro. La Juventus, per quanto abbia una struttura già consolidata, poi ha fatto degli innesti, e sai, quando in un gruppo metti dentro delle persone nuove che magari non adoperi immediatamente, devi capirne anche quelle che sono quelle le risposte nel lungo periodo. Comunque qui parliamo di due mesi e mezzo, tre, all'inizio di dicembre abbiamo già chi è passa e chi non passa, e quindi abbiamo già le prime risposte. Però è difficile, come diceva giustamente Pierluigi, pronosticare oggi è solo un gioco. A proposito di Juventus, poi andiamo col traffico, poi proviamo a virare dolcemente dai sorteggi di ieri, perché c'è stato questo episodio di Totti che ha fatto divertire chi si vuole divertire, ha fatto arrabbiare chi si vuole imbestialire. Poi questi sono fatti loro. Ovviamente domani Spalletti, febbre del sabato sera, torna ad affrontare, cioè affronta, guarda negli occhi la sua Roma. Insomma, di questo occorre parlare anche con voi, se ne avete voglia. 800 24 00 24. Sentiamo Allegri, che ha parlato oggi del sorteggio e di un'assenza che abbiamo scoperto. Marchisio col Barcellona non ci sarà. Preoccupano, non mi preoccupa il girone di Champions, perché il sorteggio è quello e quindi dobbiamo affrontare le squadre che con cui ci abbiamo da giocarci contro. C'è solo da fare dei punti e passare il turno. Invece mi dispiace per Claudio, perché stava riprendendo. Questo consulto ha detto che ha bisogno di un mese di tempo perché mancano dei valori di forza sulla gamba, e quindi ha bisogno di questo tempo. Ben figa. Figa. Figa. Bene, molto bene. Il trap apprezza, lo sentite? Molto bene. Tutti convocati. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Tutti convocati. Qui torniamo, 800 24 00 24, numero verde. Adesso stiamo parlando di sorteggi, stiamo spiando dal buco della serratura una seconda di campionato che si apre appunto con il fuoco d'artificio dell'Olimpico di domani sera. Dopo la borsa, dopo le 14.30, è venerdì, non si deroga. Racing Team, tra l'altro, ci sono sia Formula 1 che Moto Mondiale. Allora, Spalletti, Totti, Spalletti, tra ieri e oggi, questo botta e risposta. È una città, è un gruppo di giocatori ai quali ho voluto bene, poi loro possono accogliermi come vogliono. Se rincontro Francesco, io sarò ben contento di abbracciarlo e di salutarlo, perché fra me e lui non ci sono conti in sospeso. Abbracciare è un parolone, lo saluto per rispetto. Lui può pensare quello che vuole, può dire quello che vuole, io ho il mio di amore da distribuire, e per lui è un bel pezzo. Finita lì, anzi io ormai alleno l'Inter, per me c'ho un vero 9 ora nell'Inter, non un falso 9, e che mi riempie tutti gli spazi di pensiero. Ave punture di spillo, Gianni Leviasi, punture di spillo. Beh, diciamo che il fine eloquio di Spalletti, attento a tutte le sfumature, credo che vinca sulla spontaneità probabilmente di Francesco. Dice abbracciare, mi sembra un po' tanto, mi sembra tanto, stretta di mano virile e di andare. Sì, da come si saluta un avversario che si incontra dopo un po' di tempo, perché credo che siano stati avversari anche nella stessa squadra per un po' di tempo. Puntura di spillo del dottor De Biasi. No, ma lo sappiamo, è un ovvietà. Senso buono, perché sai qual è il problema? Che il giocatore tendenzialmente vuole giocare sempre e comunque sia. E un monumento, un ottavo re di Roma che non giochi, è normale che poi abbia il dente avvelenato, perché si sentiva pronto, quando è stato chiamato in causa spesso e volentieri ha fatto delle cose interessanti, e dall'altro lato c'è l'allenatore che deve guardare un po' a tutto quello che è la gestione del giocatore. Sì, è il falso 9, insomma, la vede così, di abbracci non ne dispensa. Adesso c'è chi riempie tutti gli spazi, Pardo. Ma adesso che ha cambiato ruolo, secondo me potrebbe dispensare degli abbracci, avere un diverso. Io credo che col tempo, cambierà sicuramente. Sì, magari invecchiando un po' con l'esperienza. In un mondo che spesso vive anche di ipocrisie, è anche bello così, se scopriamo adesso che Totti e Spalletti si amano, veramente ci crolla il mondo, ci crollano tutte le certezze. È stato un tema che è durato a Roma e che ha riempito le pagine dei giornali, è una dimostrazione che non è che eravamo matti noi, è un fatto di rapporto che non è mai decollato. Io Io ho visto, abbiamo detto mille volte, due momenti completamente diversi. Cioè, secondo me Spalletti aveva stravinto la sua partita con Totti, nel senso che era riuscito a tirar fuori nella stagione passata, 2015-2016, anche grazie all'aiuto di Totti, veramente il meglio dal capitano, sì, della Roma. In qualche modo, secondo me, l'aveva anche pungolato, perché anche un grande campione come Totti probabilmente aveva in quel momento avuto bisogno di qualcuno che lo mettesse in discussione, e Totti nel finale di quella stagione aveva fatto le cose grandiose, sì, aiutando la Roma comunque ad arrivare terza. Poi l'anno scorso, forse col senno di poi, sarebbe stato, diciamo, dal punto di vista dell'immagine per Francesco meglio finirla sì, lì. Sì, l'anno scorso è stato anche maltrattato, dai, tu sai come la penso, Pierluigi. È stato, sì, anche... soprattutto è stato molto tranquillo, cioè passato quell'episodio famoso dell'intervista di Ilari, che era settembre, sì. Sì. Poi la situazione si era normalizzata, la Roma andava bene, Totti stava quasi sempre in panchina, ma sorrideva, distribuiva caramelle, palleggiava con i raccattapalle delle squadre avversarie, aveva un'immagine molto positiva e di nessuna polemica, quindi su questo sono d'accordo, fino di nessuna polemica, cioè di nessuna polemica, ma sai, come dire, scorso, sai, sono qua perché ci devo venire, palleggio con raccattapalle e faccio il caramellaio. Aveva anche risultati che andavano dalla, sì, sua parte, quindi secondo me quello che è successo in primavera è strano, ripeto, è strano, perché poi a un certo punto risolta la partita a proprio favore, secondo me invece di incanerare, diciamo, questo successo, Spalletti continuava a parlare. Ha insistito, sì, no? Sì, sì, sì, ha continuato a pestare sul nervo scoperto. Allora, io prima di salutare Gianni De Biasi vorrei farvi sentire Spalletti cosa ha detto oggi su Roma Inter di domani sera, e poi chiederei al mister di inquadrarcela questa gara. Loro non hanno bisogno di ulteriori stimoli, la Roma parlo in questo caso qui. Hanno sempre vinto ultimamente. Siamo noi che dobbiamo andare alla ricerca di qualcosa di più per trovare poi delle soluzioni per essere al loro livello, per poter competere con squadre forti come la Roma. Il nostro campionato verrà misurato da queste partite qui. Partita che arriva molto presto. Gianni, come la vedi? Beh, dichiarazioni di Spalletti che tendono a cercare di fare gruppo, di fare squadra, cosa che negli ultimi anni all'Inter secondo me è sempre mancata. Non sono mancati gli interpreti, ma è mancata una filosofia comune, un pensiero che potesse dare ancora maggiore forza a un gruppo di giocatori interessanti. Io credo che lui stia lavorando molto su questo orgoglio, su questa identità, sul fatto di essere 20 o 22, 23 quelli che sono, tutti che tirano dalla stessa parte. Credo che abbia anche gli strumenti per poter gestire questa situazione. Sì, Gianni, ti ringrazio. Ciao. È un piacere. Ciao. A prestissimo, Gianni De Biasi. Allora, Pierluigi, io ho voglia di sentire Giulio da Bari, tanto per cominciare. Poi ho un altro paio di argomenti curiosi, sfiziosi, che ti voglio sottoporre. Se qualcuno vuole parlare, comunque 800 24 00 24, siamo qui, Giulio. Buongiorno. Dica. Un caro saluto a Pierluigi Pardo, da un tifoso dell'Atletico Madrid. Ho capito che Giulio è. Eccolo là, Giulio, ci conosciamo da tempo. Ti risparmi una trasferta lontana, andare almeno a fare una partita a 350 km da casa quest'anno. Tifoso abbonato all'Atletico Madrid, giusto? Sì. Sì. Con moglie del Real. Sì, più o meno, sì. Posso farti da biografo ormai, avvocato. Sì, sono io. Devo confidarvi la mia preoccupazione, perché credo che questo sia forse l'Atletico più abbordabile dell'era Simeone. Sì, questo lo penso anch'io, Giulio. Cioè, non so se è una questione di fine ciclo, perché si sente questo profumo e stare un po' da... così da fine ciclo, nonostante l'Atletico sia pronto a entrare in una nuova era con il nuovo stadio, come sai benissimo, in cui tu andrai tutte le domeniche o quasi, domeniche alterne, però questa squadra, questo gruppo, questa chimica, forse anche questo allenatore, forse sono arrivati alla fine della corsa, e onestamente, per il bene della Roma, lo speriamo, noi, tu no, ma noi sì. Beh, io penso che in qualche modo quello che ci dice Giulio può dare ancora più fiducia diciamo agli ottimisti fra i tifosi della Roma. Io credo che ci sia un elemento di verità in tutto questo. Cioè, il ciclo dell'Atletico Madrid è stato un ciclo di grandissimo livello, soprattutto al di là del campionato, a livello di Champions League, con le due finali perse, con una squadra dalla quale veramente ha tirato fuori il meglio Simeone. Adesso c'è il discorso del mercato bloccato. È una squadra che conosciamo, con un'intragliatura molto solida, una squadra che ha combattuto in questi anni tirando fuori il meglio di se stessa, proprio sull'orlo dei nervi e della grande combattività. È possibile. Però anche tu questa sensazione, no? Hai anche tu questa sensazione, che è una sensazione basata sul nulla, fondamentalmente. Guarda, però anche addirittura tu ha detto che la Roma potrebbe essere superiore da un punto di vista tecnico. Io non credo sia superiore, però credo che sia giocabilissima da un punto di vista tecnico. Quello che diventa complicato, secondo me, innanzitutto la Roma si porta con sé una serie di dubbi che potrebbero essere anche risolti tutti in positivo, perché veramente io sono molto curioso di capire come sarà questa Roma. Ha perso delle pedine importanti, ma conserva una grandissima qualità. Sì. E il tema vero è capire dal punto di vista psicologico come approccerà queste partite. Senti, a proposito di Roma, ti butto, visto che siamo in zona borsa, ti butto una caramella. Che è quella di Schick, che tra sulla strada tra Milano e Roma. Sabatini ha detto non partecipiamo ad aste. Totti ha confermato l'SMS inviato a Schick, quindi lo sentiamo. Senti, una mossa importante anche l'hai già fatta, hai sentito, hai mandato un messaggio a Schick. Ha risposto, l'importante è che rispondeva, o sì o no, però l'importante è rispondere, per educazione. E adesso stiamo valutando se diventerà un giocatore della Roma o meno. Ma ha risposto sì o no? Non ho letto bene perché ha scritto in inglese. Posso dire che ieri, adesso, ma non ho capito, ma c'è stato qualcuno che ha polemizzato sul sorriso con Buffon? No, spero di no. Spero di no anch'io. Cioè. Ma la tua frase di prima pensavo che ci fosse. No, devo dire ieri Totti è stato divertentissimo, come sempre, e devo dire che il Totti dirigente in queste circostanze qui ci regala grande spettacolo nelle interviste, anche l'abbraccio con Buffon di ieri. Guarda, veramente sono quelle circostanze in cui capisci la bellezza del calcio e il senso proprio di universalità del calcio, perché ieri avevamo in pochi metri quadri Cristiano Ronaldo, Messi, Buffon, Totti, Sergio Ramos, Shevchenko, cioè la grande comunità dei grandi calciatori, quelli tutti che, insieme, che si riconoscono tra di loro, ed era bellissimo. Non l'ha letto, la risposta non l'ha letta, però se in inglese yes or no più o meno è comprensibile, se no consegnare francese, consegna a Pardo ti traduce, sì, oppure sì, ma guarda, non lo so, io penso che non abbia ancora deciso la verità, ma va lì, dai Schick, secondo me sì. Senti, Tiziano da Parma al volo, poi ti saluto. Vai. Tiziano, buongiorno. Sì, ciao ragazzi. Beh, niente, su buona quello serie che B, ragazzi. Buona serie B a tutti. No, io sono del Milan, resta stare. Vabbè, un'occhiata gliela dà almeno per ascolta. Tra l'altro sottolineo una cosa, mi scusi Tiziano, così en passant, ritorno al Nizza, la 21ª squadra del campionato italiano sorteggiata nel giro di Europa League con la Lazio, e ci risiamo. Vabbè, vada Tiziano, prego. No, io per la diatriba tra Totti e Spalletti, Totti è 100 volte più in alto, perché Spalletti è un filosofo inutile che fa filosofia sul calcio, come ha detto adesso Pardo, la bellezza dell'abbraccio di Totti con Buffon vale più di tutte quelle parole che ha detto Spalletti ieri. Spalletti non ha mai vinto niente, per vincere deve dare probabilmente in Siberia qualcosina, da un'altra parte l'ha anche vinto, volendo, le vincerebbe anche. Le vincerebbe anche mio nonno, però mio nonno non ha mai vinto. Insomma, sì, mi sembra, visto che siamo in chiusura di questa prima mezz'ora, mi sembra un po' cattivello Tiziano. Poi, tra l'altro, io ti dico, qui faccio la profezia che potete usare contro di me: io l'Inter la vedo bene, non so che cosa farà quest'anno, ma la vedo bene, e la vedo bene soprattutto perché c'è quel signore lì, Pacchina, che mi sembra veramente un grande allenatore. Lì è stata una questione proprio di rapporti, di esseri umani, il fattore umano non si può andare d'accordo con tutti, certo. Non è che Spalletti non sia un grande allenatore o Totti non sia un grande giocatore, è che delle volte nella vita ci si ama e delle volte non ci si ama. Non è mica un problema, oppure ci si è amati e non ci si ama più, sono cose, appunto, faccende della vita. Pierluigi, ti abbraccio forte, ti abbraccio fortissimo, sì, anzi. Vi ascolto sui motori, vi ascolto. E vi ascolto. Tanta roba, perché tanta qui roba. Viene fuori un delirio. Sì, c'era Sintima, viene fuori un delirio. sai, di Belen, eccetera, eccetera. Grande passione di Leo Turrini. Che ormai. Io sì. Io pure. Un grande piacere. Io dico pure, la io verità. Pure. Allora, ciao Pierluigi, borsa, ciao, poi ciao, Racing ciao, Team. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Racing Team. Vabbè ragazzi, come sapete questo è il mio momento cult della settimana, non solo per la mia sterminata passione per i motori, in particolare quegli attrezzi che di ruote ne hanno meno di tre, ma soprattutto per l'Ungaro and Turrini Show, che ormai è un grande classico della radiofonia mondiale, direi. Saluto The Voice Roberto Ungaro, ciao Roby. Presenti. Carlo. Allora, togliamoci subito il dentro il dolore del, cioè il dolore, no, la cronaca. Cosa è successo oggi in Inghilterra? Stamattina sole, bel tempo, viene confermato anche questo meteo per la gara. Pista Yamaha, nonostante a Misano abbiano provato per risolvere il problema usura gomma posteriore, qui Maverick Viñales fa la differenza. Ha vinto l'anno scorso la sua prima gara in MotoGP, ma andò forte anche con Moto2 e anche con Moto3, e ha spiazzato tutti, oltre a mezzo secondo a Lorenzo. Loro due hanno provato però le gomme morbide, dietro c'è un Craccio, terzo molto bravo, davanti addirittura Marquez, quarto Valentino, quasi 9 decimi e quinto, ma anche lui comunque è abbastanza in palla, non ha usato la gomma morbida. Dovizioso non ha lavorato per il tempo sul giro, decimo, e invece l'amico di Leo, Iannone, in grande difficoltà, solo 18esimo. Eccolo, hai cominciato tu stavolta me l'hai scatenato tu. E vabbè, adesso sono fatti tuoi, adesso sono fatti tuoi, anche perché tra un po' arriva un signore che te lo regalo, che non è Leo Turrini, che è già in onda. Buongiorno, Turrini. Sono qui, ho sentito l'amico commentatore della MotoGP. Io purtroppo sono in coda sulla Piero Cormano, perché il jet privato sul quale volavo è stato costretto a un atterraggio di fortuna, perché alla maniera di Belen anch'io stavo utilizzando un narghilè, perché adesso qui dobbiamo dire tutta la verità su questa storia. Era una sigaretta elettronica, era una sigaretta, ma no, la compagna di Annone aveva capito, stava semplicemente utilizzando un narghilè che è più forte di te. Allora saltiamo a pie pari la cronaca delle provatanti. Io le voglio parlare invece, perché tutti voi tenete, come dire, una sorta di sipario su questa vicenda. Io vorrei sapere: era un tentativo di rapimento? Si trattava di una sigaretta elettronica? Era l'utilizzo di un narghilè? Allora, però aspetta un attimo, perché non è che tutti sono nati imparati. Aspetta, non è che tutti sono nati imparati. Inquadriamo l'argomento, Roberto. Inquadriamo, qui c'è una cosa. Allora, qui è un narghilè. Qui nel moto mondiale è diventata un po' una barzelletta. Se ne parla, si ride, è davvero una barzelletta questa, ma soprattutto Iannone deve far parlare coi tempi e non attraverso queste cose, cioè deve dimostrare. Il fatto stesso che ci sia Rins davanti a lui, insomma, è veramente diventato un po' una barzelletta. Raccontiamola a chi si fosse perso le puntate precedenti. Su un volo privato, tra l'altro, per unire due cittadine vicine, un viaggio così quasi un po' vacanzifero tra una tappa e l'altra, pare che Belen si sia accesa una sigaretta, e allora il comandante, dopo aver richiamato questo gesto, ma non vedendo un beneficio, ha deciso di atterrare su una Venezia Terme e tra l'altro non ha più ripartito, poi ha dovuto cambiare volo. E allora lei dice: era una sigaretta elettronica, no, era una sigaretta vera. Insomma, c'è stata una grande querela, addirittura ha chiamato in causa la compagnia aerea, che poi era un jet privato, non stiamo parlando. Però il fatto è che queste notizie, insomma, non ne avrebbe bisogno Iannone, purtroppo fa parlare solo attraverso queste cose. Il mondo del moto mondiale è un mondo molto pragmatico, molto pratico, si parla solo col cronometro, infatti tutti ridono un po' di questa cosa, capite? E adesso poi verificheremo, cioè si saprà. Ma sì, in fondo, la sostanza. No. Sì, Maestro, gente, lei mi sente? Io certo che la sento. Io vorrei sapere invece dal collega ungaro, sì, che viene in compagnia in queste cose, ma chi pagava questi voli privati? Perché questa è una roba, me lo chiedeva Raikkonen, il mio amico che ha appena firmato il rinnovo con la Ferrari, eccetera, no? Diceva, ma io non mi posso permettere due voli privati per andare da un'isola all'altra. Allora lei, ungaro, che rappresenta tutti noi, diciamo così, qui fermi sulla Piero Cormano perché stiamo fumando un narghilè, chi pagava quei voli privati lì? La Suzuki pagava, no, Belen? Pagava lei, ungaro. Io so che lei, lei, ungaro, secondo me gioca un po' come Pulcinella qui. Lei fa tre parlecchino. Arlecchino, servo di due padroni. Ha pagato lei, ungaro? Chi pagava questi voli? Io lo so, io lo so, e tra poco ve lo dico. Ecco, ci dica chi pagava questi voli. Perché io e Raikkonen ce lo stiamo chiedendo qui tra una volta che l'altra, dato che Hamilton vola a Spa, quindi noi ce la prendiamo anche calma. Lei, ungaro, lo sa di sicuro, chi pagava? La Suzuki sicuramente no, o lui o lei, lei. Ma c'è da dire che a lui piacciono molto queste cose, ha sempre fatto questa vita, gli è sempre piaciuta. Sì, addirittura lui è cambiato. Se lo no, invece a noi, invece, Roby, a me a Turini piace andare in giro con la Panda a metano, quello sulla Piero Cormano. È irriconoscibile, Iannone, è irriconoscibile. Se lo guardiamo bene, è cambiato proprio a livello di fisionomia, ha fatto dei cambiamenti importanti. Cioè, addirittura qui nelle due ruote si dice: ma sarebbe pronto per fare il tronista, un reality? Sì, cioè, sembra più dedicato a quello che. Io dico che dove passa Belen non cresce più l'erba, no, quindi bisognerebbe mettere un freno a sta ragazza. Maestro Zenta, mi scusi, lei mi sente? Io sì, certo. Io vorrei chiedere a Ungaro, che rappresenta, diciamo così, un po' il punto di riferimento totemico per tutti noi, ma è vero che Iannone ha fatto anche la chirurgia plastica o no? Perché questa cosa lei la sa. E chi l'ha pagata la chirurgia plastica? Lei mi accorge anche mio nipote. Ma questo, ma come se ne accorge suo nipote? Io sono anziano. Allora, anni fa si rifece il setto nasale, lui aveva, diciamo, un profilo importante, e si è rifatto un nasino alla francese. Lui ovviamente sorvolò su questa cosa, non ponendo attenzione, dicendo avevo delle difficoltà respiratorie, però ha cambiato fisionomia. Poi è arrivato questo, diciamo, questa liaison, ed è cambiato proprio tutto. Cioè, comunque, noi andiamo ad analizzare le foto di qualche anno fa. Questa qua è più pericolosa dell'Inse Yvonne, Leo, e Turrini sa cosa mi riferisco. Maestro Zeta, lei mi sente? Sì, la sento, però Leo, io voglio rivelarti una cosa. Però questo, siccome lei ha citato l'Inse Yvonne, recentemente abbiamo appreso che sono state acchiarate le fotografie, sì, sappiamo, ad amitiche. Guarda, io consiglio a tutti di fuggire dalla rete. Ungaro, è lei che ha fotografato Iannone? No, allora adesso aspetta, fermi, perché adesso vi svelo chi ha pagato quel volo e vi svelo cosa sta succedendo a Iannone. Quel volo l'ha pagato Carletto Pernat. Ciao Carlo. Ma non è vero. Ciao. Non è vero, lo so. Ma ho ricevuto, quel volo. Ma ma me lo pago per me il volo eventualmente, non certo per Iannone, dai, non scherziamo. Dai. Però, ragazzi, qui stiamo parlando di gossip, piacciono molto, se non sono d'accordo con voi. Però, ragazzi, ora io il fatto che si sia rifatto tutto e che sia un'altra persona non è vero, che magari abbia fatto qualche modifica, magari sai, hanno messo le carene, ha messo le alette laterali come la Ducati, cosa vuoi che ti dica? Però la moto è quella lì, cioè la moto è quella lì, ha messo le alette, le ha messe magari davanti, l'ha messe posteriori, l'ha messe laterali, sì, puoi mettere tutte le ali che vuoi, ma non vola, tu stai dicendo. No, esatto, no, purtroppo sono alette che non fanno volare, ed è una situazione veramente brutta, perché siamo già praticamente a tre quarti di stagione, non si cava un ragno dal buco, e francamente io dico che in 40 anni della mia carriera la situazione di questo genere non l'ho mai trovata. Eppure ti posso garantire che io ho avuto piloti come Valentino, Biagi, Simoncelli, Capirozzi, Reggiani. Sì, tutti sono passati da te. Non fa praticamente tutti parlando. Esatto. No, ma tra l'altro, Biagi stesso, caratterialmente era molto molto difficile era abbastanza simile a Iannone, onestamente, no? Da un punto di vista caratteriale. Però devo dire la verità che questa è una situazione veramente frustrante, ma per tutti, compreso la Suzuki. Sono d'accordo, sì, Carlo. Prendere degli schiaffi non si diverte nessuno. Senti, ti faccio a beneficio di Leo Turrini, anticipando, una domanda semiseria. Visto, da te sono passati tutti, tu sei il principe del foro, uomo, gran uomo di mondo, da procuratore, da curatore degli interessi di questo ragazzo, Andrea Iannone, non sei un pochino preoccupato della signorina? Perché abbiamo citato prima Linza Yvonne, insomma, dove passano certe ragazze non cresce più l'erba. Ma guarda, io ti dico la verità, vado un po' controcorrente, ma non vado per interessi personali o perché devo difendere o attaccare qualcun altro. Io sto vivendo questa storia, nel senso loro, non mia, sfortunatamente. Però devo dire che, guarda, io li trovo belli, innamorati, stanno bene assieme. Io ti dico una cosa, Iannone era un po' un delinquentello, tra virgolette, avanti, di 50 anni, nel senso buono della parola, cioè ogni ragazzo era sua, no? Nel senso che era uno tosto. Ha trovato sta ragazza, ti posso svelare un segreto, 2 anni fa, Iannone mi ha detto: io voglio uscire con Belen. Non la conosceva nemmeno. Ah, solo lui, in tutto il mondo. No, ma ti posso garantire che ha fatto delle cose fuori dal mondo, mandandogli centinaia di rose a casa, cioè facendo dei. Poi insomma ha fatto una sua tattica, chiamala come vuoi, alla fine ce l'ha fatta. Io voglio dire, l'anno scorso, dopo un mese che erano assieme, ha vinto la prima gara in Austria. Sì, mi ricordo. Ecco, il riflesso è stato positivo immediatamente. Allora Carlo, facciamo così. Adesso al volo lancio il traffico, poi mi alzo, me ne vado e lascio voi tre, Turrini, Ungaro e Carlo Pernat, voglio sentire cosa succede. Traffico. I love this game. Tutti convocati. Anche la signorina del traffico si è spaventata. Torniamo subito dopo. Non voleva rimanere qui nella gabbia dei matti. Turrini, sei soddisfatto delle risposte di Pernat? No, anzi, io vorrei chiedere a Pernat, perché questo mi interessa molto nel duello Vettel-Hamilton per il mondiale, dato che in Belgio stanno correndo le prove libere del venerdì della Formula 1. Se Pernat mi conferma che la gnocca fa male ai piloti, io sono molto più fiducioso sul fatto che Vettel conquisti il titolo, perché le abitudini di Hamilton le conosciamo. Quindi vorrei che Pernat, che ha tirato le 100 rose, tutte queste belle cose romantiche, mi dicesse finalmente e per tutti che effettivamente avere una vita sentimentale molto molto molto molto molto molto molto, diciamo così, intensa determina dei danni sul rendimento. Così io, da ferrarista raiconiano di fede e vetteliano per ragioni di classifica, sarei molto più tranquillo. Prego maestro Pernat, ti dica. Guarda, come tuo allievo posso dirti che la penso al contrario di te, caro Leo. Io penso che la gnocca faccia bene. Te la devo dare, la gnocca fa bene anche ai piloti. Guarda, io ricordo anche ai tempi di Biagi. Cavolo, ragazzi, usciva con Anna Falchi, con Adriana Valle, eppure vinceva. Allora lì la gnocca cosa faceva? Ma bene? Faceva male? Cioè non l'ho mai visto. Cioè, magari. Sei tu l'esperto. Ragazzi, io sono esperto, ti posso dire. Magari a qualcuno può fare male, su quello posso darti ragione. Certe volte sembra che tu parli dalla luna. Io quando sento parlare Pernat mi commuovo, perché Pernat ha una visione della vita che mi illumina su orizzonti immenso. A me abitualmente sconosciuti, capisci, caro gente, no? Roberto, rispondi anche tu. Dov'è? Ungaro. Parlare di tecnica, di alettone, di gomme, di cose, no, No, adesso, a parte gli scherzi, però, Carlo, tu ci puoi anche dire il vero problema della Suzuki. Perché Iannone, ok, non sta andando, ma la moto non è competitiva. E perché, nello specifico, questa moto non va? Perché, guarda, non, perché, perché è un pallone. Perché tu dici la donna, guarda, non è un problema, ok, però dacci degli oggettivi motivi per cui non va avanti. Guarda, io te li direi anche, Roby, però sono stato, tra virgolette, cacciato violentemente dalla Suzuki perché ho detto che questa moto non è uscita una moto a posto. Non è uscita una moto a posto, è chiaro che secondo me ci sta che sia la moto e sia il pilota. Io penso anche un'altra cosa, però, ti dico la verità, Roby, che quando non c'è... Quando ti fidanzi va tutto bene, quando ti sposi e devi anche fare qualcos'altro, la chimica a volte c'è e a volte non c'è. La mia impressione, per metterla da questo punto di vista, è che la chimica, tra virgolette, tra Suzuki e Iannone non ci sia. Sì. E purtroppo la chimica significa una moto che la guidi male, che in curva si allarga, che tu non la puoi aprire, il gas... che non curvi bene, che quindi curvi violento. La moto non è l'auto, attenzione, sono due cose completamente diverse. Intervenga Turrini, intervenga Turrini sull'argomento, prego. Allora, ha ragione come sempre il maestro Pernat, che ha letto tutto il Decameron di Boccaccio e ce l'ha, diciamo così, riassunto in poche battute. Il Decameron di Boccaccio l'ha scritto lui. È evidente che tra le due e quattro ruote c'è una differenza. Adesso io non so dirvi nella MotoGP perché avete degli esperti più qualificati di me. In Formula 1 si tratta di capire, visto che siamo in Belgio, mancano 9 tappe alla fine, se questo ultimo periodo, seconda metà del campionato, sia una via crucis, oppure un'odissea, o la marcia trionfale della Ida di rosso vestita. Perché insomma noi ferraristi aspettiamo da 10 anni, e sono tanti 10 anni, Vettel ha 14 punti di vantaggio. Mi sembra che Vettel, se voi aveste in regia il pezzo di Springsteen, I'm working on a dream, no? Sta lavorando su un sogno. Vuoi che non ce l'abbiamo? Ecco, perché effettivamente sta dando tutto se stesso per realizzare questo sogno. Non è semplice perché, come abbiamo visto anche stamattina sulle Ardenne, sicuramente a livello di caratteristiche del circuito, eccetera, ma la Mercedes ha un vantaggio su almeno 6 delle 9 piste che restano. Però è una storia bellissima che stiamo vivendo e che a primavera nessuno di noi avrebbe immaginato. Saremmo arrivati alla fine dell'estate senza Belen, senza Iannone, senza Pernat, senza Ungaro, con la Ferrari davanti nel mondiale piloti. Vediamo, perché è una partita apertissima ed è perfetta, devo dire, per la narrazione del maestro Genta, che è un po' il Dumas, visto che adesso ha frequentazioni francesi, del racconto sportivo applicato alle onde erziane. Cortesia. No, ma è la verità. Io sono convinto che questo modello di Formula 1 è una vicenda tipo cappa e spada di Dumas, capito? Ma sai, visto che stiamo sognando tutti quanti insieme, speriamo, e forse speriamo, vaneggiando, magari qualcuno dubita, anzi speriamo, fa benissimo a dubitare della nostra salute mentale. Beh, della mia, allora, della mia pure, ma anche Carletto e Roberto non credo si tirino fuori dal mazzo. Quello, io ho un sogno visionario, cioè quello di un anno in rosso. Non solo rosso Ferrari, ma anche l'altro rosso che arriva dallo stesso luogo, quello della Ducati. Ho torto o ho ragione, Carlo Pernat? Guarda, sembri un libro stampato. Devo intervenire con Turin. Più che la Ida, penso che potrebbe essere un involo a Mirlani, che era una famosa opera lo stesso di Verdi, dove Hernani sarebbe praticamente Vettel, cioè involo a Mirlani. Potrebbe essere meglio che una marcia trionfale, dove è molto ma molto difficile. Per quanto riguarda la rossa, io ti posso dire che hai perfettamente ragione. È successo qualcosa, due cose sono successe importanti. La prima, Gendalinia ha lavorato veramente bene e ha fatto una moto che oggi è competitiva anche in circuiti dove pativa molto. L'invenzione della Letta è stata sua, l'ha copiata tutti, gliel'hanno levata perché dava fastidio, se ne è inventata un'altra e ne ha ricopiata un'altra. Quindi questo vuol dire che Gendalinia è number one. Sì. Secondo, Andrea Dovizioso. Andrea Dovizioso è sempre un pilota che faceva 30 e non faceva mai 31, come si suol dire. Il 31 perché l'ha fatto? Perché è arrivato un Lorenzo strapagato che fa difficoltà. è diventato caposquadra, ha preso quel morale che non aveva, tutta la squadra è per lui, compresa l'azienda, e ha fatto quel piccolo salto di qualità che gli mancava, ma era piccolo. Sì. Quello che ha fatto domenica è stato enorme, è stata la vittoria della freddezza contro l'inventiva di Marquez. Se c'era il contrario, Marquez non vinceva perché non era freddo. Dovizioso ha dato una lezione a Marquez. Ha fatto una cosa che io non mi devo dare. Esatto, Marquez non avrebbe fatto quella frenata e ripreso tutto. Marquez sarebbe andato dritto. Sì, sì, perché sì, lui sì, è un fenomeno ed è uno che va oltre. E Marquez può perdere il mondiale solo se cade, perché evidentemente è un po' più fenomeno degli altri. Però attenti a questa Ducati, perché ragazzi, la moda, secondo me, le prove che hanno fatto per Misano in questi giorni sono state ancora delle prove più buone delle passate. La moto è quasi perfetta. Non vorrei, incrociamo le dita, però potrebbe essere una doppia rossa. Oh, ma mani dove volete voi. Carletto, ti ringrazio. Salutaci il ragazzo. Salutaci il ragazzo. Ed è assolutamente... È lì. Saluto. Sì, è venuta, l'ho vista adesso. Te la saluto con un bacio sulla guancia, quello che posso fare. Vedi, da parte di Leo. Vedi tu, se vuoi, lo salutiamo anche noi. Facciamo quello che possiamo, ragazzi, quello che la vita ci permette, e dove non arrivano i baci arriverà qualcos'altro. Allora Carlo, grazie. Grazie a voi, saluti a tutti. Chiudiamo. We have a dream. A te, Leo. Beh ragazzi, io sono commosso perché questo pezzo uscì a primavera del 2008, era dedicato alla corsa, alla prima di Obama alla Casa Bianca, e spero che Amor che non è Dream valga sia per Vettel che per Dovizioso. Poi cosa debba fare Vettel con Belen che ha visto l'incorsia box a Silvio non lo so, ma spero che il maestro Genta mi offrirà col consenso di numero la possibilità di indagare nuovamente lunedì, perché questa è una roba che mi tormenterà per l'intero weekend. Non c'è alcun dubbio, a questa storia si arriverà in fondo qua, arriveremo in fondo. Forse anche Pernat is working on a dream, hai capito? Ecco. Ciao ragazzi, ciao. A presto. Ciao. Vi adoro. Va bene così? Possiamo fermarci? Va bene così. Ovviamente domenica tutti convocati weekend dalle 17 alle 18.45, se non ricordo male il palinsesto, ma dovrebbe essere così. Intanto Gianmarco Ferronato in regia, Claudia Schiattone è il nostro autore, Giulia Lauricelli lì che ci ascolta, si è divertita anche lei oggi, suppongo. Noi ci sentiamo alla prochaine fois. Ciao! Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!